ascolto un disco, se no appassisco. solo. Mangia un cannolo, però sta attento, colesterolo. Don't you think gradino. fatto innamorare. Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un novio en sí. Gigi e non Salvatore. Every time I hear my standardizzare. Sabe.